tu sei, Alessandro? No, sono io. Aumenta la radio. Aumenta la radio. Sono tutto ben fatto. Va bene, adesso ti sento bene. Sei un superacchinetto? Sono col padre. Cosa sei col padre? Ehi, c'è il piccolo e il grande. Ah, quello che c'ho io? Yes. Il corpo parato ne hai? Ah? Microfono. No, non ci sono andato. Allora come ti fatto a fare il mio rubito? Capisco. Di cosa stai parlando? Non lo so di cosa sto parlando. Quello che hai detto? Di Midland, cosa stai facendo? Boh. Di Midland, no, non la conosco. Io invece avevo capito che era l'altro. Infatti per questo, perché eri fallito, magari avevi provato a prendere qualcosa, vedete come funzionava qua. No, non ci sono salito ancora, dai. E beh, sa. Sandro? Oggi l'ho vista un pochettino meglio. Meglio così? Sì, però sempre una sofferenza. Però è tornata a pausa. Davvero? E come mai io non l'ho fatto? Ma te l'avevo già avuto. E ha bisogno di un bel. Non è so. Direttamente è per le prime volte, sì. Forse per purificare bene il tuo. Oh, so. Cosa dirti di già? Io, vabbè. Cappa, cappa. Auguriamoci che si rimetta bene, eh? Speriamo bene. Cosa dici? Da. E da cosa dici? Vuoi cosa vuoi che dica? Ma ti fa che è molto... Non si lamenta mai. Molto forte, eh? Non è una tipa che... lui. Perché... Sì. No, perché... Già te lo spiego il perché. Perché non è... Non si lamenta. Non disturba nessuno. Se non ci stai attento tu. Non fa vedere nulla. Preoccuparvi. No, è proprio il suo carattere così. Cappa, cappa. Dale. E quindi oggi, come è andata la lavoro? Oggi è uguale a come ieri. Oggi si è lavorato. E adesso comincia qui la lavanta. E poi ti hai fatto il tuo freddo, Giulia. Adesso dice che deve venire una mandata di freddo che fa anche nevicare. Ah, guarda, così ho sentito. Eppure voglio vedere il coso computer dopo. Voglio vedere il meteo. Vai su meteo.it. Aspetta, non usare tratto al computer. Ma è cosa praticona, detto. Fai www.meteo.it. Già lo so, già. Oppure scrivi meteo sat, si sa certamente il meteo, addirittura c'è anche in diretta. Ma diciamo che a Sassari non penso che nevichi, sarà in Alta Italia, montagna. Ce l'ha fatta, non passato. Vabbè, cioè è vero, va. Meno che tutta una volta manca un freddo. Disney che sarà un inferno rigido. Ehi. Così. Caffè musica. Vabbè. Cosa vuoi fare? Chi è che sta cantando? Io voglio dire. Monica. Yeah. Caffè. Va bene. Vabbè. Prendiamolo come viene, tanto c'è a mano, lo buttiamo già a ballo tempo. Già che non ti ho seguito, me l'ha detto una cosa. Ho detto che il tempo non lo puoi cambiare, che dobbiamo prenderlo come... certamente che sì. Non puoi scendere perché ci andiamo a sciare. Calma. Oggi che ha... Appunto, non andiamo con la macchina travagliata come riuscì. Ah, poi ci ha fatto la moto che cammina nella neve. A voglia. Ma se ci sta prendendo appena appena di cosa strana, già fredda. Mica tocchiamo la macchina. Tutto non fa, non fa. Oh. L'anno scorso quando è successo quell'affare ho telefonato l'Italia, ho detto che probabilmente non andavo perché ero un mezzo, avevo avuto un mezzo incidente nella neve. Cazzo, io mi sono salvato e chi si vede a te è seguito a me. Però quando è così non fare l'eroe, cioè ne ho un mezzo che non si può passare, si va a piedi. Tanto ma lo sai che marcia ho messo? La prima, ero in prima, camminando in prima, come ha fatto la curva si è girato lo stesso. Perché non sono gomme che fanno neanche bene, sono gomme da cioè che non attaccano. E uno di due inoghi non mi sono abituati, perché io sono usato un bel anno in Germania e la macchina la sgobigliava con la neve. A vedere un dopo, no? Anzi, se butta giù sulla macchina c'è che la barcheggia da cammina di rasura e c'è altre tre macchine. Esatto, è buono che è trasparenza. Se non ci sono i mezzi, se non ci sono le condizioni per uscire, un conto se uno è fuori strada, digli di mamma che porrono le robe così. Allora piano piano per affatti perché hanno le tracciature di quelle grosse. Cioè, non quando uno ha una vettura normale, avrebbe già sapiti. Infatti, chi ha il 4x4, anche la Panda 4x4 ce l'ha fatta. Però, questo chi era di Fabio Dendi, era la macchina era barcheggiata, una scena da laggiù, era barcheggiata, si dice dal parcheggio, si è buttate tre macchine. Non era male, non sta fatto. E più di una ne è uscita, mi ha. Se scivolavano da sola, anche se erano ferma, vero così, si avviavano. Questo è il ghiaccio. E allora? Sai dove era la curva che c'è di fronte al Buon Pastore? A KK. E quando non si hanno le condizioni bisogna lasciar perdere. E io ho evitato via Bonorva perché se scendevo lì ci ho arrasato, perché già un anno mi è successo, fa proprio non mi fu. Rallentato con la marcia, la macchina mi ha pattinato e decida dritta. Lì l'ho evitato e sono passato dall'altra parte dove passiamo sempre noi, no? Hai visto quella strada che poi esce via Prato? Io praticamente stavo andando bene, una macchina che c'era davanti a me non ce l'ha fatta e è tornata all'indietro. Cazzo, poi come l'ho vista brutta. Non conviene, no? Quando uno ha un mezzo come si spesso fuori strada andiamo piano e c'era il ciso col fuoristrada, c'era Luciano di Bicchese col fuoristrada che stava spalando ghiaccio e cose Giappa, e chi sono già per la fatta? Sì, ce la fa tranquillo più lì col 4x4 voglia, beh, ci avete cacciato anche i sacchi nelle gomme, quindi passa nei duni e c'è di fuori strada, non può ne andare sulla neve. Piano come sempre andando, non devi accelerare. Ma sono le macchine che hanno spinto, c'erano quelle della forestale che stavano sparando, le macchine che hanno spinto che se ne duravano a Darido, andavano a salire e poi ci andavano all'indietro. E scappa e poi in cosa quando siamo usciti noi era proprio fresco, cioè era proprio il massimo, era tavano di camba per pianificare. Poi siamo saliti, abbiamo fatto gli amici di Ghibe dalla Madonnina piano piano, poi siamo saliti in via Lomberto, dice, dove sta andando lì? E tu non ti preoccupare, sempre attenti noi. E poi, abbiamo acciappato un casino via Milano. Ma il fatto tanto che io, per dire, sono arrivato e via. Tu devi continuare a consegnare cose, un casino. Niente, non fa gaffa. Offesa era, perché l'hanno fatto bagnare. Davvero? Sei messa in qualche anno? Adesso sei venuta qua. Quello stavamo dicendo. Il fatto che quando devi consegnare devi riuscire, capito? È un casino. Venturarti così. Lo so. Però cos'è il problema? Non tanto per noi, perché se noi ci abbiamo toccato, camminiamo. È un tanto perché poi non arriva mai a bombole. Il problema anche per gli altri che si girano e ti vengono addosso. Chiaro. Vabbè. In genere non è mai capitato. Io che ho potuto fare l'ho fatto, tanto l'ho bloccata la macchina, sono andato piano piano sino ad appoggiarmi appena appena al marciapiede con le ruote e l'ho lasciata così com'era. Perché se tu non l'appoggiavi al marciapiede, se ne scendeva da sola la macchina, anche se tirava il freno a mano, fa la parasua. Puta. L'ho appoggiata, l'ho puntata al marciapiede. È arrivato un altro, cazzo, tutto sparato. Si gira la macchina. Un BMW, cazzo. Io l'ho visto scendere. Stavo andando contro la macchina mia, io per evitare mi sono messo in mezzo e l'ho bloccato. Si è appoggiata appena appena, anche se c'era un amico mio, e scendete dal TV, la sant'aggiare, la sabbia. Sì, la sera andava lì, mi faccia la macchina. La paga. Io ma sono sempre rogne, tu, sempre rogne so. Se avessi preso te avrei fatto scendere davvero, così mi guardi la fiancata. Cappa. Ma meno male che non è successo, E poi abbiamo dovuto aspettare per staccare le macchine. E praticamente si sciogliesse tutta quanta la neve, capito? Perché lui, secondo come si spostava, riscendeva la macchina e faceva ancora più danni. Non credo. L'abbiamo spostato prima su e poi la via. Però guardate, mi sembrava non avesse nulla, che fosse solo spurcita e così, invece me l'ha graffiata. Se ti sappoggia, non credo. No, ma non conviene andare così, sciapello. Sì. Ma come è manco uscire? Se tu vedi che sta nevicando, non come è manco uscire da casa. E poi se io se smette e vedo che si scioglie, io sono il primo a partire, come ho fatto anche l'anno scorso. Come si è sciolto, mi ha detto, fatta ce l'hai a venire. E le te ce l'ho fatta quando sei un po' sciolta, perché se non prima non ce la facevo. C'erano le fotografie, c'erano, pure tutta la spiaggia, pure molto d'oro, tutto ghiacciato. E dove? Tutt'ora. No, le foto dov'è? Giornale. Sì, lo so, anche Porto Torres, quando io sono arrivato c'era ancora la neve. Ma mica Porto Torres è un po' difficile. Tutti i posti di mare è difficile, perché c'è il sale scioglie la neve, capito? Cos'è? La prima c'era molto freddo, c'era, avevo visto che attaccato. Sul mare, una cosa inedita. Guarda, dimmi già un attimo di bianco che devo andare a fare una cosa che mi dico come io. Dimmi, no, abbi pazienza. Dimmi, no, già ancora, dai, un attimo di pazienza e sto arrivando. La? Già, poi sto facendo una cosa. Ho detto, quando mi devo ritagliare le unghie a nero? Lo so, vediamo. Aspetta, io non ho niente. Allora. sa fa. Franciera, aspetta un attimino che metto il coso qua, ecco qua. Cosa va? Stava bien, stava bien, très bien, très bien. Che fai tu, Gia? Ma sono molto io, ma l'ho fatto la commissione. E ho preso un po' di freddo, un bel po'. Anche io sono andato a moto stasera, ma mi sono messo i pantaloni imbottiti, quelli con felpatti, quelli che sono fuori antipioggia e dentro felpatti. E il giubbotto della Nike, no, mi è passato un filo d'aria. Vabbè che non mi sono trattenuto molto, l'ho ritirata a fare il tagliando e l'ho portato a casa. Quale te dici già? Capo. Ah, non ce la travagliando, ci sono due di fare in moto, travagliando, con più freddo. Sì, sono sceso anche con più freddo, anche in dicembre sono sceso. Ma salve l'attrezzatura, io c'ho sotto il casco, che mi copre bene. Mi lascia solo gli occhi scoperti. Poi c'ho roba impermeabile che è imbottita, non è passa di aria. Oppure quel giubbotto per la moto che non ti fa passare un filo d'aria. Vabbè, comunque prendi solo gli occhi. Ho gli omicidi. Sta freddo comunque, madonna, ma la moto mi ha distrutto, guarda già. Tu anche mi hanno da acciacchi. Tutta la giubilata di moto, ui. E poi me ne fregavo. Ci ho avuto ad un'ora, mi vedi? Prima stavo bene, adesso sono un bel stavo, mi sento. Dolori, sempre dolore alla schiena. Come sto cacchio di cervicale, va. Io non te ne dico, avanti a tu, ciao. Può succedere, magari cambiamento di tempo. E chi va molto si deve coprire, c'è poco da fare, si deve riparare. Quando vado in moto, la verità, almeno che sia come stasera, se no adesso la ritirarla, che copro bene. Vabbè già, non so, va. Il freddo penetra. Anch'io quando esco in moto io mi copro bene, ma quando mi affetto è freddo, non è inutile che mi inchivetti alla lunga. La moto maledetta, è maledetta, ti ammazza, penetra. Dicevo, ai tempi vecchi si mettevano anni addietro, si mettevano il giornale, il pittore, avevo faccio la veglia. Già è vero, sì. Non so quante volte mi è capitato un libro da pittore, andiamo a un freddo, pure una volta me ne dimentico, però già non mi organizzo, non lo metto, un giornale nel freddo, così lo passa al freddo. Sì, facevano così davvero. Ma stasera non mi hai visto al computer, ti ho chiamato, e beh, Pudichino. Già, mi hanno detto, passerà tu subito. No, ho detto che deve essere Bosche, ha lasciato acceso ma non c'è, ho pensato così. E poi tutte le risposte, poi dicevo, il messaggio diversamente, che vabbè, sono qua, sono là, ripeto, tu vai, che ti sa, bambini, che sa, la roba è là, ti metto in pigiama, ripeto. Ci sta bene in pigiamone. Brumbo. Di quelli belli imbottiti, adesso poco sono belli, che si devono caricare. Il brutto è il momento che ti devi togliere la roba e metterti in pigiama. Il momento più brutto è quello che ti entra un freddo. Sì, anche a tu. Tu già sei in pigiama già, no? Quando te la scenda. Io sì, io come sono tornato a casa subito mi ho messo così almeno soffro di meno dopo. Tu che stai dicendo, Antonio? Vai tu! E Giara, dimmi, ditemi! Ha detto se sei in pigiama? Da un credo già! Metto anche le babbucce, non me ne vergogno! Di quelle fatte a mano! Dio mio, una coperta e via! Ma mi mettevo anche la papparina, ma mamma me l'aveva fatta! Ci avevo la pappalina per la notte, le babbucce, davvero, non so scherzare. Già farò una notte, l'importante è coprirsi. Ma io non la Rebecca, che ti scaldava un bel. Ma si aveva fatta anche una bella mantella di tanti colori. Aveva lana che praticamente faceva un golfo, roba così, e poi ne avanzava un po'. Poi faceva un altro golfo, ne avanzava un po', e lei ha fatto una mantella di un bel colore. E si da bulli in alto, ma non so quanto riparava, ho provato un giorno a capo, era bel caldo. No, io anche se c'è freddo freddo, la notte una coperta, massimo due e basta. E a volte poi esagero, no, e mi scopro, mi tolgo la coperta addosso. Mi piace molto caldo. Una volta che mi sono scaldato, poi mi piace anche raffreddarmi un po'. A me piace così, tranquillo, no? Una coperta tutta la notte, sto bene. E anche io lo sono molto. Invece le donne sono più freddose. 13 di mante, ce ne buone 4-5. Più freddolose, non me ne do. A me mi piace il caldo. Mi piace per un po' e poi mi stufo. Mi piace quello giusto quando di notte. Poi qua c'è il riscaldamento, quindi la casa viene riscaldata, capito? Dopo la mia non è così. Io già l'ho provata anch'io così. Quando abitavo a Sacro Cuore ci avevamo la stufa economica, tu. Scaldava quella parte lì dove vivevamo, dalla cucina del soggiorno, e poi le affrettamere erano un gelo. Giappa. No, mi apre una macchina che mi assenta a stare lì. Cosa? Niente. Ho detto che c'è una macchina che mi sta facendo partire un po' di... Vabbè. C'è un febbre. Appaga. Oia. Diciamo che... Lì vedi tutto. C'è tutto sotto controllo. Gappa. Ma è meglio così, almeno sai se si avvicina la macchina. Lo so, ma siccome ti è una macchina che non mi piace assai. Tu vai da ogni data? Beh, io ogni tanto ho casino. Pescia. Ma ci bruciava uno poco fa, era a 2 era. Cosa? Un altro si è comprato 5,50 come te, lo sai, a Sassa. Chi è che se l'ha comprata? Uno nuovo, Michele si chiama. Allora, pigliato dal corso. 5,50 come il tricolore. Mesce. Va bene, io lo sento bene. Chiappa. Ah, sai che mi sta venendo un dubbio già. Da Monte Bianchi. Chiappa. Comunque mi sta venendo un dubbio. Che cosa? Che pure quando c'è la D2 secondo me ci va bene, solo che sa com'è. Anche a me ci è venuto quel dubbio. Vabbè, io me l'ho venduto, tanto non è che ci ho preso nulla, gli ho tolto la scheda poi non so che fine abbia fatto, l'avevo conservata perché me l'aveva chiesta Franco California, poi mi ricordo se gliel'ho data, se non gliel'ho data, non me ne ricordo più. E cappa. No, quel dubbio lì ho. Forse l'ho data a Franco. Sì, forse gliel'ho data. E tu? Sai come? E cappa. Infatti. No, magari quando era normale c'è Valecco il tuo, vero? Sì, c'aveva Valecco ma non piaceva. Dicevano che era brutto, allora me l'ho fatto fare. Però quanto pare dice che non usciva bene. Poi mi ha dato delle rogne perché mi hanno messo per l'ascolto troppo alto, si innescava, faceva, alla fine mi sono rotto le scatole e l'ho dato. Ho dato la notizia che veniva da noi, che adesso non sta più venendo, ma quando ci avevamo il capannone aperto, si è affittato, di da noi a scaricare, ho venuto un bel po' di roba, anche un DM1000, di un venduto, eccetera, eccetera. Però io sono fatto così, sono sempre col dubbio. Secondo me non era così. Chi lo sa, Io nel parlascotta mi sentivo bene, solo che ogni tanto fischiava perché era troppo alto, l'avevano regolato. No, io sto parlando già, è normale, sto parlando. Come ce l'ho io? Io normale, l'ho sentito, quel ragazzo a me mi sembrava che uscisse bene. Già, ma un buon apparato, senza ombra di dubbio. Già, perché è difficile che non stanno bene. Sembra strano. Non è la prima serie che no, ma guarda, io rimango nel dubbio, perché io un giorno ti ho sentito, ti ho fatto provare, mi è bastato quella prova a capire che è uscito anche molto forte e molto bene. Pagata. Quello che è, mi lascia un pochettino nel dubbio. E a volte, vabbè, dico una cosa per un'altra, lo so come no. Sì. E già lo sappiamo a quella maniera. Vabbè, comunque venuto quasi come l'ho pagato, quindi venuto abbastanza bene. Pure te l'hai voluto intendere io. E anche mi pare che voi non stavate ancora entrando quando io l'ho venduto. Non me ne ricordo se per Paolo stava già entrando o no. Forse c'aveva il Midland. Negativo ancora, noi avevamo secondo quanto tempo è. La frequenza adesso è circa 6 o 7 anni che l'abbiamo ripristinata. Ma è vero. La ricussiva è un tempo bassa. Io la voglia. Quindi, io l'antenna ce l'ho qua tanto lì piazzata. Sì, è stato un po' che io ho ripreso nel 2006, se non mi ricordo male. Vabbè, comunque, quello lì è stato uno dei primi apparati della ripresa. Il primo è stato il coso, l'Alan 48 Plus. È buono, ce l'hai ancora, va bene. Anzi, per meglio dire, il primo è stato il portatile, quello con la valigetta. Poi ho usato il 48 Plus e poi ho preso gli altri. Gappa. Comunque, già va bene, dai. Beh, infatti, adesso al completo, mamma mia, sempre brillante, sono i C2. Con ne fai tutti i colori. Adesso sono andato dai cinesi, mi ha regalato una di quelle penne che quando tu scrivi si accende, no? Senza della luce rossa, l'ha vista, quella me la devi dare, papà, quella lì è per me. No, Marconi, non te la do. Me la devi dare, ti prego, te ne porto un'altra e te scambiamo. Sono tutti dei cugini, mi l'aiuto buttata. Ma prima l'ho fatto soffrire un po' prima di dargliela. Gli ho detto che non ne lavo, si è cazzato. No, se in capo lavavo la bottiglia. E ha detto, non te la devo chiedere io sono tuo figlio, tu sei il mio padre, me la devi regalare perché sono tuo figlio. Quando si può regalare, io la tenere dopo. Nasce. Ed è andato bene in studio, oggi ha fatto la verifica in studio, è andato bene, quindi gli ho fatto il regalo. Mi ha fatto bene, va. Ma che è stata dura, ha dovuto studiare ieri, poveraccio, è uscito alle 4, perché fa il continuato, era stanco morto quel bambino, e doveva studiare un bel di pagine di studio. E l'abbiamo trovato addormentato leggendo, praticamente con il libro in mano e drumito. Un bel po' di storia ci ha fatto sopportare ieri. Beh, si deve studiare, brava. Poi la devi interrogare, devi studiare pure tu insieme a lui. E poi la devi interrogare. Quando la interroghi la devi sapere tu, perché se no se dice fessi lì, ti ascolta. Ciao, ma che impare. E io a miei tempi ho già imparato, poi sono cose che ho anche dimenticato, e col passare del tempo, ma l'infarinatura ce l'ho sempre. Vediamo, credo io. La storia poi non mi è mai stata simpatica, e altro. A me è proprio quella che piace. No, era un po' restio. Io avevo le date, mi rompevano un bel. Le date non erano il mio forte. Gamba. No, mi ha sempre appassionato un po' la storia. Io andavo bene in geografia, in scienze, in italiano, francese. Diciamo, queste materie qui. Poi educazione fisica avevo più della sufficienza, però non ero una cima. Educazione fisica ci avevo 7, e poi in storia avevo la sufficienza, intanto così per saperla, però è che mi entusiasmava, anche perché dicevo cosa ce ne frega a noi di quello che è successo prima, dobbiamo pensare al presente, non al passato, così per la pensavo così, a me questo piace, piace anche per sapere come era una volta, eccetera, le cose. Sì, dei babilonesi, i primitivi. Da lì, dai primitivi, ha cominciato. Via, mamma mia. Oh, mi piace. Ma davvero io mi guardo la storia pure. Per me è una palla, dico la verità. La matematica un po' di più. Però anche la matematica non mi piaceva. La studiavo, ma non mi piaceva. A me già piace un po'. Tutto questo era di cose. C'è geografia, scienze, francese, quello sì che mi piaceva. Ma lì no, non mi piace assai. No, invece ci ha messi la natura a me. Io ho detto la geografia l'ho imparata anche in francese. La geografia già un pochino già mi mettevo. E sono le monte principali della France, le Pirenee, le Massif Central, le Vosges. Non ho mai studiato l'italiano, l'inglese ci facevano studiare così. Io ho fatto la geografia in francese anche, per dire. Sono le monuments plus importants de la France. Le Dôme des Invalides, da cui cosa vira? L'Arc de Triomphe, le Louvre, Tour Eiffel. A me piace il codo, piace, come si chiama? Mi piaceva di più l'inglese. Ma noi inglese non ne abbiamo fatto francese. L'inglese non l'ho scelto io, a me piaceva il francese perché avevo un amico che veniva qua, si chiamava Antoine, e praticamente un amico veniva d'estate perché aveva parenti che abitavano vicino a casa, quindi mi piaceva parlarci. Avrei imparato l'inglese, a me mi era piaciuto di più. No, io ti dico la verità, mi piace il francese anche perché vengono i cugini di mia moglie qua. Se non parli il francese non parlano, se ne stanno da una parte. Beh, tocca arrangiarsi. Bisogna parlare in francese perché loro non si sono mai abbassati, malgrado avessero i genitori tutti e due italiani, perché i genitori sono anche tutti e due sardi, tra l'altro, di imparare l'italiano. No, se lo sempre parlato il francese, no, l'italiano non c'è cosa imparare. Non ne vogliono sapere. Capito? C'è che sono francesi e devono fare francese. Adesso ho messo su Facebook, una delle cugine sta parlando un po' l'italiano, deve essere che si sta ridimensionando. Beh, cosa c'è tra però se i tuoi genitori non sono francesi. Ma i genitori hanno sempre parlato francese, hai capito? Il padre lavorava in una fabbrica di mattonelle, quindi con i colleghi parlava il francese. Tornava a casa e per abituarsi a parlare francese lo parlava anche con la moglie, capito? Lui me l'ha spiegato. Il primo periodo era tutto in salita per lui, poi ha detto che ha cominciato la discesa, che ha cominciato a imparare, poi lo parlava meglio di francese. No, lo parla molto bene, sembra un francese parlando, addirittura c'è la R proprio moscia come francese. Perfetto, al primo periodo è andato stroppiato. Beh, sono tutti e due del novesimo, non è che siano francesi, ma adesso parlano bene, adesso parlano male l'italiano, lo sa. Al contrario, l'italiano lo parlano male, dicono parole strane. Perché non sono più abituati. Dice dicono James, per dire James, cadebbe su di Agrefe. Poffa. Sbagliano, capito, perché sono abituati a sapere francese. È normale. E poi sono un bel di anni. Addirittura lui ha lavorato da quando aveva 17 anni in Francia. E adesso è in pensione. E cavolo. Lo stavo dicendo. Io conosco una persona invece che l'italiano lo parla correttamente, è stato tanti anni in Germania. Ma quanti anni? Diciamo che è stato roba di 15-16 anni. E questa è una vita, mica c'è. Tanto, io ti parlo di 40 anni, 45 anni. No, e pure un tedesco usa famiglia bene. Magari ha vissuto in qualche famiglia dove si parlava l'italiano anche, vive molto quello. Perché mio zio è partito in America quando aveva 17 anni, 18 anni, ha cominciato a lavorare lì e ha trovato una famiglia del suo paese che già lavoravano lì e è andato a abitare con loro, pagava la stanza, l'affitto della stanza, tutto ammobiliato e tutto, mangiava con loro e tutto, era come se fosse di famiglia. E lui ha sempre parlato sia l'americano che l'italiano. L'italiano, loro parlavano addirittura il dialetto di Milano, lo cugionese praticamente di Cugione, perché di Milano, che è un paese vicino a Milano, e parlavano il dialetto, capito? E oppure l'italiano in casa, poi quando usciva fuori parlava l'americano. Era esatto, poi quindi parlava così con la moglie e figlio. Oh yeah. Dunque, essendo in un paese straniero, cioè, ci vuole imparare, è difficile. Vedo che i negretti imparano subito l'italiano. Sì, quello è vero. Ma fate comprendere se andi in America, entri in qualche posto, devi svegliare e indicare la roba, se no si comprende. Beh. Beh, diciamo che chi sa parlare l'inglese è più o meno uguale, dai, la cadenza è diversa, ma più o meno uguale. Chi non fa vedere nulla, ognuno, è tutto in salita. Ma lo sai mio zio, da quando mi raccontava di Recipe in America, lui ha detto che l'ultima volta che era venuto qua a trovarci, ha detto che prima di partire stava attraversando per andare alla stazione, e questo tipo ha fatto uno scippo a piedi, scappato, ha attraversato la strada, è passato un camion, la gaffigata e l'ha ammazzato. No, no, quella prossima volta l'ho fatto lì. Almaco non fate più male a nessuno. Ha fatto cadere una donna, l'ha fatto sbattere la testa, ha detto. Me l'ha scippata, poi si è messa a correre, è scappato. Ma poi si è dovuto camminare la gaffigata. Almeno uno che non fa più nulla alla società. Tu lo sai da quando ce l'aveva raccontato? Oh, qui non ne sentivo di scimmie, di cose, non ce n'erano. Però non se ne sentiva parlare da me. Infatti mi sembravano tutte cose strane. Mi aveva detto che andava, si comprava la macchina fotografica. Poi Gianni tieni, questo l'ha regalato a te, forse me la regalava, si comparava a di un'altra cosa e la regalava a misurire. Ah, era una cosa allucinante, una volta sola cosa la usava, si è fatto le fotografie, la cavalcata, però si è preso una di quelle macchine polari istantanee e ce l'ha subito regalata. Già stava bene, cominciato da zero, mi ha cominciato a fare diciamo lo scaricatore al porto. Beh. E poi lì, ma adesso c'ha i figli, c'ha lasciato la famiglia adesso. No, Antu, praticamente mio zio è partito così da zero, praticamente è diventato un funzionario in una grossa fabbrica di macchine, praticamente quello che comandava tutti, tranne il padrone, vabbè, ma poi il resto erano tutti sotto di lui. E lì guadagnava un bel di soldi, stava per sposarsi e la moglie è morta di incidente, non si è più risposato, capito? C'è la moglie, la ragazza, si doveva sposare il mese dopo, mi pare. E da lì non si è più sposato, adesso non si trova più, non è morto. Ma sto lì, era Detroit, nel Michigan, a Detroit. Lavorava in una fabbrica di macchine nuove, cose. Aveva abbastanza soldi, non aveva vizi e cose. La cosa che ci aveva è che a colazione beveva whisky. No, la buona. Sì, perché è abituato lì che si doveva riscaldare, a colazione con un whisky, per riscaldarsi. Dicevo, zio, il whisky non riscalda, brucia. No, già ne riscalda, un bicchierino mi va bene. Si beveva quel bicchierino, poi ho fatto lo yogurt, la colazione è fatta. Tranne quello non aveva più visti né macchina né nulla, era una persona molto semplice, là. Scendi, l'autista personale per accompagnarlo a casa quando finiva di lavorare. Non ne aveva patente? Ma non penso, macchina no, ma patente non lo so la verità, ma non penso. Poi quando veniva qua, disturbava, niente, aspettava che tutti si alzassero, andassero in bagno a lavarsi, poi l'ultimo si alzava lui, non disturbare gli altri che dovevano andare in bagno, perché a casa di mamma il bagno c'era uno solo, non è come qua che vi da giù due, a casa di mamma c'era uno qui dentro, dovevi fare la fila, là. E così, poi usciva, lui non sapeva nulla, non conosceva la città, beh, pigliava i scia, e nel tornava sempre con qualche cosa in mano. O pigliava affettato, pigliava ghiaccio, pigliava l'altro, sempre qualche cosa. Mamma dice, ma smettila, non devi prendere nulla se tu l'ospite è qua. Ma io, Maria, non posso stare qua senza... se la mani vuote, capito? Lui ha paura sempre di disturbare. Chiappa. E io magari poi ce li ha e va e via. Era uno, il fratello di mia nonna, era così. Quando veniva in occhio era sempre comparente. Era di buon cuore, così. Era una persona veramente docca. Bravo, bravo, bravo, bravo. Parlava poco, non si intrometteva, pigliava si discia la giura, camminava. Mamma diceva, ma dove sei andato? Cioè, oggi ho fatto quella zona, si informava anche dove andava. Chiappa. Ebbene, Mondiale è morto. No, no. Tu pensa che quando è morto praticamente lui alla fine cosa ha fatto? Si è andato in pensione e se ne è ritornato nel paese dove era nato, cioè a Cugione. Ed era andato in un ospizio di quelli però per gente un bel ricca, che a quanto ci hanno detto i cugini c'è che sembrava un albergo questo ospizio, che c'avevano tutto, televisore, bagno in camera, insomma non gli mancava niente. E praticamente il destino ha voluto che si prendesse quella brutta malattia. Quando lui si è sentito che stava quasi per morire, ha fatto il testamento e ha lasciato tutto quanto a questo istituto dove era stato ultimamente. Per mandare avanti, diciamo, l'istituto, aveva anche un bel po' di soldi. A mio padre aveva lasciato l'orologio, qualche effetto personale, così e basta. Ricordo, stavo dicendo, quanti marito era, il più piccolo era come fratello? Santo, non ti ho capito. Il più piccolo. Aspetta un attimo. Sì, che hai facciato una pena e viene a giocare con sé. Sì, è il tasto come tu premi si accende, perché la penna è per aprire e chiuderla è da giù che si gira la punta e si apre e si chiude, e poi se premi il tasto di sopra dove di solito premi per far uscire la punta della penna si accende anche la luce. E dove ha cavato il suo tastino per la smontata, non è possibile. No, Antu, perché è dall'interno che si metteva, non dall'esterno. Lui sicuramente l'ha smontata, però non si va più a mettere. E ridurano dall'altra Santo Stefano, ho detto, poi non la portare a scuola perché qua la tira i bambini e te la rubano subito. No, papà, la lascia a casa, sì, come ha fatto con l'interno di esse. Cappa. Che sei migliore. E che ha mangiato scaglione. Che avanti. Ah vabbè, di quelli che non vogliono parlarci. La maglia di scaglione è frusciata. Tanto ho visto che in quel posto là l'antenna costa di meno di internet. Vero? 38 euro costa. Ma me l'hai detto? Con viaggio e tutto. Chiappa, per arrivare? Tutto compreso, 38 euro. Ma quanto ci mette a arrivare? Una ventina di giorni. Sicuro? Sicuro non c'è niente, loro hanno detto così. Chiappa, io l'ho detto, ma ne sei sicuro o mi piglierò ancora? E infatti quando è da arrivare la roba è sempre, io sono sempre contrario, però dico, se vuoi la ordiniamo, no, lasci stare, no, non me ne faccio ordinare mai, perché tanto lo so, già l'esperienza. Chiappa. Già non mi ha fatto come l'altro. Aspetta. Oh, io sono peggio dell'altro. Ma ti stavo dicendo, tu, che mi ha fottito l'uomo a te, se mi avevi ordinato rosmetro vattometro, accordatore, eccetera, eccetera, e detto che non lo facevo arrivare. Ora fra una settimana, ritorno, e non è arrivato ancora. Poi mi ha detto, anzi no, non l'abbiamo ancora ordinato perché non c'avevamo altra roba da ordinare. Vabbè, ok. Torno di nuovo, un'altra volta, no, poi alla fine metto che non ce n'era. Chiappa, ma per caso chi è quello normale? Quello come c'ero io. HT1000. Tanto, tanto non entra, lascia l'ubbio. Ti stavo dicendo, HP1000 era sul catalogo, tutto quanto, mi ha detto che me l'avrebbe ordinato. Così. Comunque ne ho visto uno in vetrina da poco. Di che cosa? No, Roberto, non è quello, no? I documenti che ci va via io non si ti annota. E c'è minorito? Sì. Ah, già serve, io ce l'ho, funziona al mio. Non mi pare assai. Ha un modo particolare di usarlo, insomma, funziona. Per mandare praticamente fondo scala devi mandare i watt e poi ti dà watt e ROS. Sì, lo so, però come del colore della mia non si vi annuncia. No, ormai già funziona, l'ho provato, funziona, mi dà le stesse stazionali che mi dà l'altro. Ma che te l'avevo, sono riabbassate in questa sera, sono nemmeno 1 euro. Che me l'hanno vedere, sta giunto. Fruscene. Se rotto deve essere. Hanescoffen, effettile petiscoffen. Grazie. Come da se lo gruffo, ma si zoom. Oh, ci sono gli uccelli che parlano le parole, e lui invece fa il contrario. Merlindiano parla, no? Procedo e fede lo contrario, vede lo bizzo. Ma per Paolo, la pagaglia sua. Yeah. E due. Allora io lo so. Non lo stavo capendo. Che parla già. Chiedino. Il merlo indiano. Dracula religiosa, per meglio dire. Basta. Attacca il grande, aiuto. Ho sentito. Ti ho sentito per Buzzo. Ah, non può. Mi tocca mettermi l'apparecchio acustico per sentire. Addirittura. Arrivo a basso, c'è un po' di corrente. Comunque già si fa sentire. Già ovvio si fa sentire. Quando sono stanco, cara. Cos'è tu? Sono stanco. Che io non ti credo che mi sia ripreso più di tanto, ogni mattina mi alzo alle 7. Chiappa. Io non mi alzo presto la mattina. lei appunto sempre corrente. Lo so come il tram tram no, ma perché io non la buffo meglio quando dico sempre corrente, proprio sempre corrente, proprio sempre a maletta a me. Tu anche io sono così, purtroppo chi fa questi tipi di lavori così, io c'ho per dire appuntamento a orario, devo fare in fretta, devo fare determinate cose per arrivare giusto giusto a quello lì, se no poi mi rimango tutto da fare, c'è quello che mi apre una certa ora e devo liberarmi per quell'ora lì, quindi devo fare in fretta a fare le altre cose che ci sono prima. Ciao. Io le faccio subito le consegne, io non so se trovo qualche intoppo, però a me si chiama le dico subito. Io lo stesso, ma io faccio tutto solo, guido e faccio. Sì, se è fatto la sua, ha fatto una stessa cosa. Niente, la patente. Certo. Sì, cambio un posto da bicchio. Te la prendo in privatista. Non me la prendo da PC. Ah! Te sai cosa fa nessuno? Ah, me la butta, ma. Oramai non è la biva. Oh, ma tu credi che ti facciano qualcosa? Ah, non lo so. Sono cose gravi, non sono cose da scherzare. Intanto chi ha preso le parti dell'ultimo periodo dice che gliele fanno tutto rifare. Guarda, dopo tempo un mese e chi ci bastone, chi dice niente, che hanno fatto tanto del corso, ancora travagliente. Tranquillo. Lo so. Purtroppo non si vede di là, impazzisce, non capisce più nulla. Lo sai che ce ne sono pochi di quelle lì. E quindi già usa niente, sono tra la tome, anche da maniera. Ma... non mi intendo. Ai comandisti. Vale. Puro due. Cappacchetto. E cosa va? Ah, cosa? Ho detto cosa c'hai perché ti senti male. Di tutto e di più. Curriculum voglio. Come? Il curriculum di quello che hai. Vabbè, quello è già morto, fa male. Ma posso toccare poco poco le orecchie, vedi come si vede l'uscita. È l'unica cosa, io sono morto, ma è l'unica cosa che vede l'uscita. Ma non ce ne dà. Quella sola c'è rimasto, va. Paga. E vabbè, interessante andare avanti, per me. Ci vogliamo fare una busta. capire se cosa gli hanno fatto Emilio a questa Vencomia. Ha avuto un incidente, praticamente un brutto incidente con la macchina. Aveva il cranio praticamente con la scatola cranica aperta, due gambe tutte fratturate, eccetera, in coma. Quando è uscito dal coma l'hanno messo in reparto e un occhio l'aveva perso. C'era l'altro che era salvo l'occhio. Passava uno, gli dava antibiotici, passava l'altro, gli dava antibiotici, passava l'altro ancora antibiotici. Un giorno gli ha detto: dottor, ma io quanti antibiotici devo prendere al giorno? Uno al giorno, una pastiglia al giorno. E allora perché me ne stanno dando anche 3-4? Cazzo, il dottore ha detto, ma stiamo scherzando qua. Tanto l'infermiera ha fatto un cazziantone lì. Tanto lui qui alla fine ha perso la vista anche a quello che lo sai. Ma non è ricco siamo, è te. Che bello orario qua. Sono le 22:21. E sono ora di fare i lavori. Cazzo, tu dai la cosa qui giunto. Sono le 22:21 e stanno facendo i lavori ancora, va bene? Dove ho c'è a te? Di fianco. Ma com'è ti toccavano in un muro quando va via? E lei si è tagito la favola, penso che me la punto io. Ma io ti l'avevo lampato il muro, va. L'avevo con tuo cagno e te l'avevo lampato il muro. Ehi, non ti preoccupare, vendetta fuffata, già. È una vendetta fuffata. Ha pagato. Se tu pensi che la domenica mattina loro vogliono dormire, invece io non mi sveglio sempre alle 6, non ti chiedi? E poi quello con contento, lo mandavo, non me lo mandavo, e poi c'è sempre che mi parte. Ma manco della vaglia, no? E là? Con la famiglia lì? Non so se lavoro. Sono anche, quindi, non saranno certo stanchi. Non ti preoccupare, io non so di chi ci sei bisogno, non si deve mandare come per me. Ma andavo a travagliare, potete dirmi. Pagare. E hanno un bel coraggio, Mazzo, e poi quello, se lo senti parlare, visti il rumore che mi sorprende, mi sotto la turenda, ma più di un attento, è vero. Ma ti piace? No, non ti piace, ma poi trovo di merda. No, perché come ti vedi tu, ma ti piace. Perché parla così, già? A Michel Duce. Non lo sai neanche io come parlavo da salire, cioè a Michel non apportavo, infatti, ma che Napoli era perché una domanda a 3 anni. Magari da... io... C'è un po' di rumore quando lui non sta facendo lavori, ma lui spesso sta facendo i lavori a casa. E prendemente con i lavori a casa, e lui li può fare, capito? Lassi no, capito. Sì che uno dice vivo lascio vivere. Ma neanche di giorno li vuol sentire dagli altri. Boh. A me quel giochetto mi ha preso una tavoletta e fare la punta di una trappa rotondata che non fa niente sul legno. Mi metti la percussione, la metti contro il muro e inizia. Allora momenti che è un casino che fate. Beh, ci credo. Se tu gli fai così, non è vero che gli passa la cementa. La domenica mattina, eh sì, che bello. Me l'hai fatto il vibratore. Chi fa la specie di vibratore? Ma non è pure il tempo. Non te l'ha toccato, Rubu? Ah, no, che non tocca, se lo tocca. Che gente che esiste... Certo, lì non c'è regolamento condominiale, quindi pone i vari su grimbiati. Sì, se il regolamento non è una cosa fare i piedi. Uno deve anche rispettare chi dorme, chi dorme. Non c'è nessun ritegno. Pensiamo le cerchia. Per una lotta, per fa. Sta dura senza paura. Coltivate, risolto. Kappa, kappa, kappa. ciao per pace, sentiamola. Hanno sbite. Ciao. Comunque quell'antenna là costa meno là che su internet. Meno là comunque. Già mi complisco. Non dico niente gratuitamente. Prendo tuyo. Vabbè, ma là come fa a salire? Cava. Ah, ce l'hanno disponibile? No, da rifare. Ma deve arrivare? E quanto tempo? 20 giorni. Esagerato. Perché ho detto che sin quando fanno un pacco consistente, la Intec non manda, che poi no, non vedo cosa c'è, la Intec con la sigla. La stessa casa, già. La stessa? Va. Pensavo di no. Ragazzi, ce l'avrà assorbita come stanno facendo. Vabbè, questi giorni. Sì, bisogna vedere. Io non è che mi fido tanto, stavo dicendo Antonio. Si sono commenti l'altro, uno peggio di l'altro. E chi ce l'ha, è vero questo? Ma guarda la cosa, ma da Torino hai fatto di una cosa. E manca da Fusaro. Ordinatore, smetrovate, metto l'accordatore, aspetta un giorno, aspetta l'altro. Non è mai arrivato. No, ma ci hanno rapportato, ci ha messo due mesi, ma ci hanno rapportato. Cosa, quello della ZTC? Ehi, ma la KP1000? No, non è la KP1000. A me piace quello, la KP1000 mi piace. Comunque ci ha accorto, perché quando avevo un po' di stazionale me l'ha accordato questo qua. Non è che accordi più di tanto, No, il mio 999 accorda, cosa? Della ZG? Allora, 999. Ho uscito. Sì. Paga. E per dire quanto ti accorda, se ce l'hai a due, senatore, a quanto te ne facevo? Quanto vuoi tu, non vuoi toccare tutto il muro. Questo qui no. Ma no, allora non è un accordatore. Ehi, è accordatore, ma probabilmente ha qualche difetto. Ah, è per dire, allora lo fa faccio male. L'accordatore ti toglie tutto come tu vuoi, Deve togliere tutto. E quello che ho fatto quando c'avevo la tenda che non funzionava a Giuseppe, no? E le ho messe a uno. Però ti abbassa un bel vatto. Praticamente il mio si dimezza il watt, se tu ne dici te ne porta 5, accordato. No, non funziona di me, allora no. E così è. E così. Tu pensa che ci sono accordatori, tipo come quelli degli HF, che hanno anche gli apparecchi, che c'è un accordatore integrato retro, che non ti toglie assolutamente niente, ma proprio su 50 watt ti può togliere un millesimo di watt. Ehi. Questo qui non l'ho attaccato più adesso, perché quando ha piovuto, che ho fatto quelle giornate di pioggia sempre continue, era 1 e 2, 1 e 3 di stazionare, cosa che non ho mai avuto io, sempre 1 e 1. A meno che ci fosse qualche cavo difettoso, qualche cosa. Lo rimisurate. Ma sempre così, non provate a abbassarle. Se attaccavo arrivava a 3. Riusciva a abbassarlo sino a 2. Però si può che avessi un'antenna, qualche pochettino di onda magnetica, come si chiamano, di non la metto. Frustrata. Che le cariche elettrostatiche, quello fanno in quota delle volte quando piove, fanno delle cariche elettrostatiche, già lo so, E anche magari poi c'è entrata acqua, anche se è tutta bella isolata, boh, chissà, chissà. Con l'andare del tempo, sai come sei. No, si c'è, mi è trattato, su quelle antenne lì gioca molto il fatto, anche perché è un'antenna romana, ma è collaborata per stare fuori e non, non è una cosa di ossidazione del corpo, sono carico e sono stati più che altro, però sono, però non è stabile, che se fosse stata l'ossidazione provocata dal corpo ci si forma un'ossidazione, non posso essere, invece quelle possono essere solo cariche elettrostatiche, un momento ti dà quelle e poi torna normale. E una volta sono salito sullo spruzzato, il CODC sopra il PL, bene, lucidata dove si dove arrivavo, oh, non mi ha più dato problemi. Ciao, ciao, ci sentiamo, avanti. Ciao, potrebbe succedere. Non ti è mai capitato che togliendo il PL ti accompagni fischiata? Ma a me non la verità, ma già l'ho sentito. Che ho fatto? D'estate mi ci diavolo. Vabbè. A me mi è capitato che tutto il PL mi è scesa l'acqua dal piede. Che ho fatto? Una volta... Una volta sei uscito etero PL, sei uscito. Una picchiata che faria nei quattro. E sono scorse furti, no? L'ha fatto pure a me. Ciccato. Ma ciccato. Come stanno fuori? Può succedere. Vabbè. Quello è che hai toccato quello che si è attaccato l'ante? Sono proprio cariche elettrostatiche, anche d'estate lo fa molto, roba di... che c'è nell'atmosfera, roba meteorite, ma la dovete fare. Fagaffa. Questo cambiamento di tempo solitamente a me non mi aveva pagato problemi, invece questa volta non erano altissime, erano 1,3. Perché così non le fa nulla. Infatti non era nemmeno stazionale, perché sono abituato a sempre a vederlo muovere appena appena, capito? Io sarà, se basti la potenza e vado stesso. Beh, infatti. Casi lì, fino a, se fino a 10 watt si dà 1,2 va bene, per esempio, ma se, se si dà di più basta scendere a 5, fai lo stesso. Quello sì. Ma più scende, più uso. Cioè, si cerca di modulare, purtroppo è così. Ma a volte già lo fa anche l'umidità. L'umidità è micidiale adesso, ah sono cavolate, sono le cose che poi quando si asciuga va bene. E un po' di vento basta. Sì, sì. Solo un po' di vento e via. Non lo sapevi che se tu prendi il catalogo c'è Intac Sigma? Si saranno, diciamo, gemellati, avevano fatto il gemellaggio. Ma sono la stessa casa, insomma. Ma prima non era così. Prima no. Sono Intec Sigma e poi c'è quella Yeah, come cavolo si chiama l'altra. Yeah. Sì, chissà, Yeah. Non me lo ricordo bene. Sono in tre. Questa Yeah non la conosco. Quella che fa le antenne. Dica che fa antenne. Visto degli alimentatori della Intec che switch, che sono la fine del mondo. E dove c'è il catalogo? Passano. Ah, ce l'ho. Ma ti è arrivato? Sì, ce l'ho un po' di tempo. Ma non ho visto quell'ultimo. Non si può cercare, adesso non me lo ricordo bene, lo so. Ma c'era un alimentatore che era solo belle da vedere. E poi come il mio, rispettoso, perché dopo preso la 50 volte per essere, per avere un alimentatore come si deve, e dopo andavano meglio gli altri di quello. Dispettoso, pochissimo, pochissimo sono dispettoso, questo l'ho fatto bene, penso che la Intec lo fa dispettoso, non se ne dia. La Proxer può succedere, ma la Intec La Proxer fa roba buona, strano, è molto strano, sicuramente una partita che è uscita così, perché se ti ricordi, l'altro che mi aveva spedito si era proprio spento. Ma quello lì sta andando bene. E insomma ogni tanto si ferma. Poi lo stacchi, la prolunga, lo stacchi, attacchi, perché deve essere si resetta. Veramente. E lo praticamente lo riattacca e funziona bene. Ti dura per 2-3 mesi così, dopo te lo rifà. Infatti per regola bisognerebbe tenerlo aperto, vedere da dove partono le scintille, sicuramente ci sono scintille perché sento un rumore strano. Dipende quello. Magari un componente che vorrei cambiare. Desiderio mi ha detto di mandarlo, sono stato io che non gliel'ho mandato perché tanto poi me lo tengo 100 anni. Come l'ha parato, come l'ha parato? Poi l'avevo già mandato, cazzo, e me l'hanno rimandato indietro l'altro Mattesi là. Proprio, pazienza. Ma me lo so così tanto, il difetto lo conosco. Gatta, se funziona bene. Basta che stacchi la spina, poi la riattacchi e parte bene. Scusate che no, si può fare a sento che non si spenga del tutto. Quello sì è. Va. Ne ho un altro di riserva, sa. La 10. Buono quello. Atta, quello lì non si abbassa di nulla, Ma guarda, anche questo che mi ha venduto, quel pirla là, non mi posso lamentare. Diciamo che quello lì c'ha anche gli strumenti illuminati, anche se piccolini ce li ha. No, no, il mio non è strumenti, però guarda, no, non mi posso lamentare, no. Ero già, penso che ce l'abbia già 3-4 anni, non lo so. Però no, va bene. Posso lamentare, abbiamo attaccato anche roba un po' un pochettino sostanziosa e ce l'ha fatta. Allora, va bene allora. Ho fatto la prova. Va bene. Quello lì dovrebbe camminare Antonio con l'alimentatore aperto, con la cabeza, quando si sura che fa quel rumore, basta alzare per aprire il coperchio e controllare dove sta la difetta. Cappa. Sai, dicono che non servono quegli alimentatori della CBC, invece non è vero nulla. Sì, dipende dagli amperi. Questo c'è sempre ampere, se lo vedi che non ha attaccato un apparecchio che assorbiva molto, eppure se l'ha portato bene. Quindi così? No, non mi posso lamentare, la verità. Il mio è anche pilotabile, lo sai. Vabbè. Quello che ho comprato a Fusaro, quello della Intel, non ricordo come si chiama. Elettronica. Ehi, Alfa Elettronica. Sì, sono buono. Era bianco, bianco. Io l'ho subito tolto il coppio perché ve lo diciamo. Cappa. Già va bene. Ma qua c'ha 12 fattori dietro. E anche quello lì. Cappa. Ma comunque abbastanza buono. Vedi, quelli lavorano a 10 fattori, invece quelli elettronici lavorano a 20. Gappa. Poi ne ho un altro grande, grazie, questo è buono, ma e quanti ampere? 10. 10. Ma strumenti? Ragazzi, mi piacciono quei strumenti, anche di quella felicità. Oh, ma se non è importante che funzioni, poi se non hai strumenti non mi interessa. Per me anche l'otto vuole la sua parte. Se un apparecchio funziona bene e non ti piace come l'estetica, cosa, almeno io non lo prendo. Non l'hai visto il mio? Quale? Il mio alimentatore. Quello che c'è lì? Sì. Sì, sì, lui. Già. Ah, bueno, non me ne importa nulla, aspetta, già va bene. È nuovo, funziona bene. Beh, quello che c'ho io da elettronica, come cacchio si chiama, Alfa Elettronica, quello è pilotabile. Certo. Che puoi mettere i VOS che vuoi. Ah sì, il capo non sono riuscito. Sì, ce l'ho anch'io, il ZG abbiamo così. L'ottavo. Va, va. Poi tutto io non lo so. Questi Alfa Elettronica mi sembrano che siano meglio degli altri. Sono buoni già. Chi ha di questa marca mi sa di piccino. Ecco gli strumenti, però io non l'ho mai visto. Ecco, lì sono, gli strumenti sono bellini, perché ti fanno stazione, dai. Cavolo. Ma io ti dico che a me va bene così, non ce ne spendo altri soldi. Tu, tanto poi durano molto, una vita quella. Quello è vero. E quanti anni ce l'ha una persona con l'alimentatore? Cosa? Persona, quanti anni ce l'ha un alimentatore del genere? Da 50 anni? Un bezzale. Capito che sto dicendo? Cavolo, se i tratti bene vanno sempre bene. Sì, bene, ho visto anche uno tutto polveroso, tutto consumare, pure andare a Roma. La voglia. Chi è l'uomo nuovo, come il primo giorno che l'ho preso? Ma l'hai preso nuovo da nego? Allora. È uno bello da corso, se c'è ancora non lo so, però c'era. Come si chiama? Non Grassi, l'altro, Fusaro, il nome è Melchiore. Si chiama la Novetta. È un bel mano, ma costa 200 e passa io. Ma come può usare? Se un biglietto fanno costa così. Ampere ne ha poco. State tranquillo, chi c'è buono. C'ha pochi ampere. So c'è. 2-3 ampere. Tu! 2, ma adesso 200. 7-8 ampere. Ma adesso attacca a culo, che te l'ho detto io. È grande, non vengo qua. No, c'è per un appetito più piccolo. Ma infatti, chi c'è l'altro allora? Un alimentatore che costa 200 euro dovrebbe essere almeno un 80 ampere. Forse che prima ci aveva i mitificati che erano un bel quelli, ci aveva un bel fuoco. Un bel fiore. Sì, hanno marchiati, come si dice, Zodiac. Avvicinati un po'. Zodiac, sì. Chiaro. Ecco, anche se aveva un bel fiore ce l'aveva Zodiac. Chiaro. Ma che sono molto buoni come apparato. Ci scegliamo tutti. È la specializzazione. In corso, in apparecchi, diciamo, portati da. Certo, però che ce li ha avuti, sono quelli che fanno molto bene. Poi sono, ho aperto anche negozio più grande. Già, dopo la roba non ne hanno più. No, le avevano finite, me li ho comprati tutti io, costavano una cazzata. Cosa? I microfoni, 15 euro mi va. Che anche sta? Stavo tutti comprati. Che opera. No, era un'offerta, era molto la batteria. Dopo la batteria erano. Sì, la batteria da 1,5. Una da 1,5. Una stila. Certo, adesso è buone. La sì, era un bel microfono. Era una bella capsula. Certo, non te ne è venuto manco uno. Te ne è svegliato. 4 o 5 erano gli ultimi. Poi regala uno, regala l'altro. Via. Ne cosa via. Via. Ora non sei quindi. Sì. Se vuol dare la buonanotte. Gaffa gaffa, mi sta aumentando, boh, mi assonno. Ok, dai, allora buonanotte già. Intanto ci sentiamo domani. Sta. Si sta bioccando Gabbo. Ah, poco fa capo, non sa via carriera, sta guardando con su Facebook ed era Cristiano, mi ha mandato la notizia. L'ha mandato anche a me. Poi gaffa. Ciao ciao, buonanotte gaba. Buonas noches, muchacho. Ciao muchacho. Buon travai e buon domani. A me è piaciuto una cosa. E che sta avendo? Io non ho compreso nulla. A me è piaciuto un balda. Ho detto di buon lavoro per domani mattina. Chiara, grazie. Io non ho fatto compreso nulla, l'ho interpretata così. Ma ecco, sta facendo il traduttore. Yeah.